Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Stamattina il Consiglio dei Ministri ha finalmente licenziato il decreto legislativo rinnovabili, quello che ridisegna il quadro entro il quale si svilupperanno le rinnovabili da qui al 2020 e tutta una serie anche di altri aspetti molto importanti. Un decreto molto atteso ma anche molto temuto, dato che si profilavano tagli pesantissimi proprio per il settore delle rinnovabili e in particolare per il fotovoltaico. Alla fine però, questo si è capito già a partire, insomma, da inizio settimana, è prevalsa una linea perlomeno di mediazione che oggi si è in qualche modo concretizzata, però bisogna dire la verità, solo in parte, dato che alcune delle decisioni più critiche di fatto sono state rimandate. Allora proviamo intanto a fare il punto con Sara Romano, direttore generale dell'omonimo dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi il Dipartimento per l'Energia e le Risorse, anzi la Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico. Sento il direttore Romano che dietro si lamentava della definizione. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei, a tutti. Allora, intanto diciamolo appunto, un decreto molto complesso, vero? Il decreto è complesso perché gli obiettivi cui dobbiamo tendere, cui vogliamo tendere, sono obiettivi complessi, belli, ma implicano tante decisioni sul ricordo. Solamente al di là dei temi più caldi, che questo decreto attua una strategia completa sul settore elettrico, sul settore termico, sul settore dei trasporti e contemporaneamente sull'efficienza energetica in tutti i suoi aspetti, soprattutto nell'edilizia, in modo da poter veramente arrivare al 2020 avendo un contenimento dei consumi di energia, un uso più intelligente dell'energia e una quota di rinnovabili ripartita su questi tre settori. Ma alcune norme sono già immediate, per esempio quella secondo cui finalmente per tutta la nuova edilizia e per le ristrutturazioni rilevanti sarà obbligatorio avere almeno il 50% dei consumi per acqua calda fatta con questo da subito. Allora, andiamo adesso sulle materie più calde che hanno fatto più discutere e che hanno anche, insomma, visto dei contrasti all'interno del governo. Iniziamo dal fotovoltaico. Quali sono le decisioni prese oggi e quali quelle che non sono state prese? Allora, oggi si è presa la decisione di considerare in parte superata, diciamo, questa stagione di programmazione, anche perché all'obiettivo, che non era un tetto, però era un obiettivo che ci eravamo posti, di avere un 8.000 megawatt di potenza fotovoltaica al 2020, ci arriveremo ben prima. Quest'anno, presumibilmente tra qualche mese. Presumibilmente quest'anno. A questo punto, riaprire una nuova stagione di programmazione è necessario, ovviamente, e d'altra parte il calo dei prezzi, delle tecnologie, dei costi d'impianto ci consentono di ridurre e rendere più efficiente l'incentivazione per questa tecnologia. Sappiamo tutti che questi sono costi, che le fonti rinnovabili ancora hanno bisogno di incentivi e quindi noi pensiamo che sia doveroso utilizzarli secondo criteri di massima efficienza. Non c'è dubbio, però quello che è stato deciso oggi intanto è la rimozione di questo tetto di 8.000 megawatt che se fosse rimasto avrebbe bloccato tutto, però di fatto oggi, come dire, non sappiamo quali saranno i nuovi incentivi, verranno stabiliti entro il 31 aprile. Ci potrebbe essere un calo molto forte, paventato ancora da qualcuno, sbaglio? Allora, tenga presente che i nostri incentivi sono altissimi, soprattutto sono molto più alti di quello che negli altri paesi riscontriamo esserci. Senta, c'è anche qualche restrizione sul fotovoltaico a terra? Di questo si era già previsto nella prima bozza. Il fotovoltaico a terra in aree agricole, preciso, avrà delle restrizioni che però sono quelle conosciute, cioè il 10% della superficie occupata e, diciamo, la potenza nominale di ciascun impianto di un megawatt. Perfetto. Con la possibilità però di installare più impianti purché con una distanza non inferiore a 2 chilometri. Nel D'accordo. Caso di terreni che appartengono allo stesso proprietario. Ecco, se non sono state decise le nuove tariffe del fotovoltaico, in compenso è stato deciso, come dire, quantificato il taglio ai certificati verdi, che sono quelli invece di cui vive fondamentalmente l'eolico e anche la biomassa, ma soprattutto l'eolico. Sì, il governo ha tenuto conto dei pareri delle commissioni parlamentari e anche, diciamo, del dibattito che si è sviluppato, secondo cui la proposta di riacquisto di questi certificati verdi al 70% del valore massimo era stata ritenuta penalizzante, per cui il valore finale è stato come del 78%. Del 78%. Questo bisognerebbe spiegarlo bene. Il valore reale cui si riscuote in certificati verdi non è che scende del 22%, allora, quello reale scende molto meno. Sono due valori diversi. Mm. Uno è il valore di mercato e uno ovviamente è il valore massimo. Il taglio sul valore massimo più o meno porta il prezzo di acquisto del GSE pari a quello che è il valore di acquisto registrato sul mercato. Questo dovrebbe mettere tutti in una condizione di rispetto delle previsioni iniziali. E naturalmente questo sistema dei certificati verdi verrà totalmente superato da qui al 2015, quindi si tratta di una norma che varrà solo per pochi anni. Transitoria, insomma. Sì. Grazie, grazie direttore Romano. Grazie a lei e a tutti voi, arrivederci. Una nota conclusiva doverosa, mi sembra. Nessuno dei protagonisti politici del governo, di coloro cioè che questa mattina seduti al tavolo del Consiglio dei Ministri hanno preso le decisioni di cui abbiamo parlato finora, ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito. E questo è un segno inequivocabile del fatto che lo scontro all'interno del governo sul tema delle rinnovabili, in particolare sul futuro del fotovoltaico, è tutt'altro che alle spalle. Cercheremo di rendervi conto anche di questo nelle prossime settimane. Con questo è davvero tutto, buona serata.